suono, eh. La ricerca sul suono? Sì. Oh, ma se uno nel suono si sente? Sì. Oh, Aita, vieni qua! Perché ci ha fatto scendere il tipo? No, perché già ho fatto qualcosa. Livellati. Ma aspetta, anche io c'è una stata. Non hai 12 anni, cosa vuoi fumare? Brava. È da fermo. Coraggiosa. È da fermo.